Ibrido Toyota, la scelta inevitabile per il tuo business. Generazione Mobile, studiare e lavorare nel mondo. Di Sergio Nava. Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con Generazione Mobile, studiare e lavorare nel mondo. Giriamo la boa del mese di novembre, terzo mese di programmazione della nostra trasmissione navigando verso nord. Ci aspettano atmosfere decisamente settentrionali nella nostra rotta in direzione della Danimarca. Architetti a Copenaghen? Perché no? Se vi piace un ambiente meritocratico e molto flessibile, può rappresentare un ottimo compromesso di vita e di lavoro, a patto, ovviamente, di ambientarsi a temperature più fredde. La cosa più importante che vi insegneremo grazie ai nostri due testimoni di oggi è che farcela è possibile, partendo da zero. Eures, con le sue opportunità in Europa e la cassetta degli attrezzi offertaci bimensilmente dal Sole 24 Ore del lunedì, completano il menù della puntata, insieme agli imprescindibili consigli di Emanuela Verrecchia per affrontare la vita professionale in Cina. Generazione Mobile. Lo spunto della settimana ci arriva da Page Personnel nel suo studio su cosa cercano i selezionatori europei nel curriculum. Consigli utili a partire dal numero di pagine. Nei paesi del sud Europa come Spagna, Portogallo, Italia è molto importante limitare il CV entro le due pagine. L'esperienza all'estero è di fondamentale importanza per i selezionatori dei paesi mediterranei. I meno esterofili sono i recruiters belgi e dei Paesi Bassi. Se si desidera cercare opportunità lavorative in Olanda, è bene sapere che il 74% dei consulenti HR locali troverà rilevante leggere dettagli sugli interessi personali. Lo stesso succede in Portogallo e in Germania. Infine, la motivazione personale a cambiare lavoro. Nei Paesi Bassi il 90% ne classifica l'inserimento nel curriculum come importante. Toolbox. A Toolbox tornano le anticipazioni del Sole 24 Ore del lunedì. Ascoltiamo allora cosa c'è nel menù odierno della nostra cassetta degli attrezzi e lo facciamo insieme a Francesca Barbieri. Buon pomeriggio a Francesca Barbieri. Buongiorno a tutti. Allora Francesca, di cosa ci parli oggi? Soprattutto cosa anticipi di quanto poi tra due giorni, dopodomani, sarà anche sulle pagine del Sole 24 Ore lunedì? Sì, allora sul Sole del lunedì, nelle pagine di lavoro e carriera, questa settimana dedichiamo un ampio focus al nuovo bando di Erasmus per il 2018, perché ci sono novità sia sul fronte dei finanziamenti sia sul fronte operativo. Dunque, andiamo a vedere innanzitutto i finanziamenti. A quanto ammontano? Allora, i finanziamenti ammontano a 2,7 miliardi per il 2018 da dividere tra tutti gli stati dell'Unione Europea. Rispetto a quest'anno c'è un aumento di 200 milioni. E per parlare poi delle cose che interessano di più a chi ci ascolta, quali sono poi le novità contenutistiche, quali programmi o insomma revisioni di programmi esistenti ci saranno in questo nuovo Erasmus? Allora, ci sono alcune interessanti novità, ad esempio debutta Erasmus Pro, che è un'iniziativa per la mobilità a lungo termine degli studenti degli istituti di istruzione e formazione professionale. Ci sono poi nuove possibilità per gli studenti universitari di svolgere tirocini e stage per lo sviluppo soprattutto delle loro capacità e competenze digitali e si rafforzano anche i partenariati tra le scuole, perché ricordo che il programma Erasmus Plus ha raggruppato sotto un unico cappello tutte le varie iniziative previste dall'Unione Europea a favore della scuola, dell'istruzione, della mobilità degli studenti sia a livello di scuola superiore ma anche soprattutto a livello di istruzione universitaria. Infatti questo è importante, lo abbiamo detto anche spesso a Generazione Mobile, non è più solo la classica borsa di studio Erasmus, ma con Erasmus ora si può anche andare a fare tirocini all'estero, per esempio. Ci sono tantissime possibilità. Sì, esatto, è stato rafforzato soprattutto il capitolo dei tirocini, quindi è possibile andare a svolgere stage in aziende, in istituzioni pubbliche in un altro stato dell'Unione Europea e da poco tempo anche al di fuori dell'Unione Europea. E all'interno del programma Erasmus c'è anche quello che una volta si chiamava Erasmus Mundus, cioè la possibilità di svolgere master universitari post laurea al di fuori dell'Unione Europea. Quindi assolutamente un mare di possibilità da cogliere per giovani mobili soprattutto. Abbiamo qualche numero su questi giovani mobili che hanno approfittato in passato, negli ultimi anni, delle opportunità di Erasmus Plus? Sì, allora, secondo quanto riferisce insomma l'agenzia Indire, che è uno degli istituti ufficiali, diciamo, che rappresentano il programma Erasmus Plus in Italia, per quest'anno accademico, cioè 2017-2018, si prevedono 41.000 studenti in mobilità, sto parlando di studenti universitari, e diciamo che complessivamente a livello europeo, dall'avvio del programma dal 1987 fino a oggi, sono stati oltre 4 milioni gli studenti che hanno partecipato al programma. L'Italia ha contribuito per il 10%, posizionandosi tra i 4 principali paesi per numero di giovani in partenza per esperienze di studio verso destinazioni europee, dopo la Spagna, la Germania e la Francia. Allora, prima di congedarci, Francesca, e ricordare che dopodomani, lunedì, nell'inserto Lavoro e Carriere del Sole 24 Ore ci saranno tutti i dettagli di questo nuovo programma Erasmus. Diamo anche però qualche indirizzo utile e pratico, ricordando che chiaramente sono talmente tanti programmi che poi bisognerà informarsi nel dettaglio su quale è più interessante, magari anche la propria università per quanto riguarda le borse studio Erasmus più legate agli Atenei, però ci sono degli indirizzi dove si trova un po' tutto. Allora, vi do intanto diciamo l'indirizzo della, come dire, dell'agenzia Indire che segue il programma in Italia, che è www.indire.it. Ma è possibile anche, come dire, andare sul sito dell'Unione Europea e da lì trovare la sezione dedicata all'Erasmus. Quindi sostanzialmente sono questi i principali, diciamo, contatti. Poi basta una semplice ricerca anche attraverso motori di ricerca come Google e si riesce ad arrivare facilmente a trovare tutte le informazioni utili. Il testimone. Il testimone della settimana è un giovane architetto italiano. Pierpaolo Sala, 33 anni, ha fatto una scelta netta: trasferirsi in Danimarca e ripartire da lì, insieme alla sua compagna. Non è stato facile, come ci racconterà lui stesso, ma sapersi adattare a un contesto diverso può rivelarsi fondamentale per farcela. Buon pomeriggio, Pierpaolo. Buon pomeriggio. Partiamo dalla tua storia, la storia di un laureato in architettura che in Italia trova, questo dobbiamo dirlo, un quadro e una situazione lavorativa abbastanza, o meglio, decisamente desolanti, sia nel settore pubblico che in quello privato. Come tutto questo ti ha portato poi alla fine in Danimarca? Beh, da un lato il numero di studi di architettura di livello altissimo, veramente una quantità incredibile, e dall'altro il benessere generale, per cui è nota la Danimarca, dato che compare spesso nelle classifiche come paese più felice, paese con il migliore equilibrio vita-lavoro. Quando sei approdato in Scandinavia ti sei dato 6 mesi per ottenere qualcosa, per ripartire. Quanto ti ci è voluto per ottenere un colloquio? La prima settimana ho avuto 2 colloqui di lavoro e entrambi si sono conclusi con un'offerta. Quindi in pochissimi giorni ti sei praticamente inserito nel contesto lavorativo locale. Di cosa ti occupi ora esattamente? Adesso sono in uno studio internazionale, mi occupo dei concorsi e ho una specializzazione nell'ambito della visualizzazione 3D. Andiamo allora, Pierpaolo, con un po' di consigli pratici per i nostri ascoltatori. Qual è la prima cosa da fare non appena messo piede a Copenaghen, partendo dal conto in banca in base a quanto hai scritto a generazionemobile@radio24.it? Per lavorare è fondamentale avere un conto in banca danese, e per il quale serve avere il CPR, cioè la tessera di previdenza sociale. Per avere la tessera di previdenza sociale bisogna recarsi all'International House con un contratto d'affitto legale, quindi con le firme di entrambe le parti, e la residenza europea. Per il certificato di residenza europea ci sono le persone preposte a spiegare come ottenerla, quello è un po' più complicato da ottenere, però in una mezza mattinata si riesce a ottenere tutto. Ecco, quindi bene attenti, state bene attenti a questa concatenazione. Il conto in banca è un po' l'arrivo, il punto di approdo. Prima bisogna avere tutta una serie di certificazioni che ci ha appena spiegato Pierpaolo per poter aprire questo conto in banca e da lì partire. Perché, ti chiedo, Pierpaolo, trovare casa a Copenaghen è la parte in assoluto più difficile? Soprattutto, quali sono i tuoi consigli? Il mercato degli affitti è folle, soprattutto a Copenaghen, per cui consiglio di stare molto attenti alle truffe, non firmare un contratto per una casa senza averla prima vista, non accettare di pagare se non tramite bonifico bancario, evitare gli annunci che dicono che quell'affitto non darà il diritto a ricevere un CPR. E il mio consiglio è meglio spostarsi per un primo mese in un qualche alloggio temporaneo e da lì gestire questa parte iniziale di inserimento. E Pierpaolo, c'è un consiglio fondamentale che tu alla fine, riassumendo un po' tutto, dai: meglio non cercare lavoro e casa in Danimarca dall'Italia, tutt'al più da qua tastate il terreno. Come? Esatto, consiglio di mandare inizialmente il proprio portfolio e curriculum vitae a un po' di studi ben mirati e vedere il feedback. Se il feedback è positivo, anche quando non c'è un'offerta di lavoro, quando si riceve una risposta negativa del tipo non abbiamo una postazione di lavoro aperta in questo momento, spesso le email sono un po' più ricche anche di dettagli, per esempio complimenti per il portfolio, molto interessante. Generazione Mobile si ferma per un attimo, ci sono strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Ibrido Toyota, la scelta inevitabile per il tuo business. Vi presenta Generazione Mobile, studiare e lavorare nel mondo. Bentornati a Generazione Mobile, il programma di Radio 24 che vi fornisce tutti gli strumenti utili per avviare la vostra nuova vita all'estero. Al centro di questa puntata il racconto di Pierpaolo Sala, 33enne architetto a Copenaghen. Con Pierpaolo stiamo facendo un vero e proprio viaggio all'interno del mondo del lavoro danese, con un focus particolare sull'architettura. Come redare un curriculum, come cercare lavoro, come adattarsi e trovare opportunità spesso impensabili in Italia. Una guida all'espatrio davvero preziosissima. Riprendiamo allora l'ascolto. Generazione Mobile. Portfolio, quanto è importante? Il portfolio è fondamentale, più del curriculum vitae. Il curriculum vitae serve in una seconda parte in cui si vuole firmare il contratto e bisogna valutare l'anzianità e i diritti. Il portfolio è invece la maniera con cui ci si deve accattivare fin dal primo momento il reclutatore, dato che ne ricevono decine e decine al giorno, deve avere qualcosa di particolare. Quale curriculum presentare, Pierpaolo? Il curriculum, insomma, serve mostrare una ricerca personale e far trasparire uno stile coerente, far capire che più che un bravo architetto sia un architetto bravo in qualcosa. E soprattutto niente Europass, vero? No. Ok, no, questo non serve a granché e non sei il primo a dircelo. La lingua è un ostacolo? Non è un ostacolo, l'inglese lo parlano tutti, ovunque, anche sul lavoro. I documenti a volte sono in danese, però non è fondamentale sapere il danese. In ogni caso, per i primi 3 anni le lezioni sono gratuite e quindi conviene approfittarne. Una volta arrivati al contratto, cosa aspettarsi in termini di stipendio e prospettive di lavoro? In termini di stipendio si ha un collective agreement per quanto riguarda gli architetti, per cui tutti i benefits sono normati. Si parte da un minimo di 30.000 corone, che tassate in euro sono intorno ai 2.400. Poi con l'anzianità c'è un crescere e anche a seconda delle mansioni e degli incarichi che il si svolgono all'interno. Come minimo non è male, chiaramente il costo della vita è anche un po' più alto, non dimentichiamolo. Attenzione anche al fattore mobilità sociale, su questo bisogna essere predisposti e tu stesso l'hai potuto sperimentare in prima persona. Il mercato del lavoro lì è veramente dinamico, no? Per un danese è normale cambiare lavoro ogni massimo 2 anni. Per loro il contratto indeterminato comunque non significa non poter mai essere licenziati, significa semplicemente poter essere licenziati ma con degli scaglioni di preavviso che variano con l'anzianità. E in una parola, vale la pena, Pierpaolo, guardare nel complesso a un futuro di vita professionale in Danimarca? Sì, ne vale la pena. Ci raggiunge ora in linea Laura Carnevali, compagna di Pierpaolo e anche lei, architetto. Buon pomeriggio, Laura. Buon pomeriggio. Tu sei stata l'esploratrice dei due in realtà, perché hai portato tu, Pierpaolo, a quelle latitudini. Quale programma comunitario ti ha portato in Danimarca? Il programma che mi ha portato in Danimarca è l'Erasmus Plus post laurea. E quanto la borsa di studio Erasmus ti ha agevolato, Laura, nell'entrare all'interno del mondo del lavoro danese? Come ti sei candidata concretamente? Allora, credo che sia stata fondamentale la borsa di studio in quanto comunque entrare in uno studio di grandi dimensioni è molto più facile con una borsa di studio alle spalle. Soprattutto anche dal punto di vista economico, siamo comunque retribuiti, ma con la borsa è comunque più facile rientrare nelle spese di una città cara comunque come Copenaghen. Inoltre mi sento di consigliare a tutti di effettuare quanti più tirocini possibile all'interno del corso di studi, in quanto comunque credo che sia molto più importante avere alle spalle una grande esperienza piuttosto che una carriera universitaria molto breve, ma anche brillante, ma senza esperienza. Su questo sono assolutamente d'accordo. Tu stesso l'hai detto, questi tirocini comunque sono pagati. Sì. Quanto più o meno, anche per dare un'idea? Dipende dal paese in cui ci si vuole candidare, dal costo della vita. Io nello specifico prendo 480 euro mensili, dei quali l'80% viene accreditato subito e il 20% una volta terminata l'esperienza Erasmus. Andando al sodo, si è rivelato utile per te questo tirocinio? Stai lavorando, stai imparando? Assolutamente sì. Si è rivelato secondo me fondamentale per il mio presente e per il mio futuro qua in Danimarca. Sto lavorando in uno studio che nell'ultimo anno sta crescendo esponenzialmente e ormai si è anche creato una fama internazionale, e quindi è veramente stimolante per me partecipare a dei concorsi di così grande prestigio. E una volta conclusa borsa e tirocinio, vedi per te un futuro e una carriera in Danimarca, Laura? Purtroppo dal forte dell'esperienza di Pierpaolo in Italia non vedo sicuramente un futuro roseo per me come architetto in Italia, quindi credo di avere molte più possibilità qua in Danimarca, sì. Grazie a Laura Carnevali e soprattutto in bocca al lupo. E domanda di rito finale per Pierpaolo Sala: quale primo consiglio pratico daresti a un giovane coetaneo che sta pensando a un espatrio di lavoro? Il mio consiglio è quello di puntare in alto invece che scendere a compromessi. Questo sia dal punto di vista del proprio lavoro come architettura e sia dal punto di vista lavorativo. Job Abroad. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Tornano le offerte e le iniziative in Europa insieme all'agenzia Eures Italia, che ogni due settimane ci aggiorna sulle migliori opportunità disponibili. Katia Mastracci di Eures Italia. Il progetto European Solidarity Corps è stato lanciato dalla Commissione Europea a dicembre dell'anno scorso e sostanzialmente vuole offrire delle opportunità di tirocinio e di lavoro ai giovani per consentirgli un'esperienza di responsabilizzazione nel campo della solidarietà. Possono partecipare al progetto, che è gestito dall'ANPAL, l'Ufficio di Coordinamento Nazionale, EURES, sia i giovani dai 18 ai 30 anni che siano cittadini e residenti in uno degli Stati membri dell'Unione Europea, sia datori di lavoro che abbiano sede legale in uno degli Stati membri, che siano in regola con la normativa nazionale e che intendano offrire ai giovani dei contratti appunto di lavoro di tirocinio che vadano da un minimo di 2 mesi a un massimo di 12 mesi. Il progetto offre appunto delle opportunità nell'ambito dei 6 settori solidali stabiliti dalla Commissione Europea, ovvero educazione, salute, integrazione sociale, protezione ambientale, emergenze e gestione calamità e aiuti alimentari. Nell'ambito del progetto sono offerti servizi personalizzati sia per i giovani che per i datori di lavoro per tutto il processo di accesso alle opportunità di lavoro fino alla alla fase di placement e eventualmente di post placement. Per quanto riguarda i benefit finanziari, i giovani vengono supportati per affrontare colloqui di lavoro in uno dei paesi europei, per affrontare il trasferimento in un altro paese, per avviare un tirocinio o un'esperienza lavorativa, per fare dei corsi, per seguire dei corsi di lingua, eventualmente per avere riconoscimento di diplomi e qualifiche, ma anche per rientrare nel proprio paese. Anche per i datori di lavoro è previsto un benefit finanziario fino a 2.000 euro per giovane neoassunto al quale si offre un programma di integrazione. Per accedere al progetto basta semplicemente registrarsi al sito europeo europa.eu Youth Solidarity, se si è appunto un giovane da 18 ai 30 anni, mentre i datori di lavoro possono registrarsi al portale nazionale EU Solidarity Corps .ampal.gov.it. Internet Point. Siamo giunti ad Internet Point, lo spazio di Generazione Mobile dedicato ai siti, ai blog e alle informazioni utili in rete create dagli italiani all'estero. Spazio alla nostra rubrica mensile L'Ideogramma a cura di Emanuela Verrecchia. Oggi Emanuela ci instrada su un punto fondamentale e imprescindibile per potersi trasferire in Cina: l'apprendimento linguistico del mandarino. Oggi parleremo di come, dove e perché studiare il cinese. Per trovare lavoro in Cina non è indispensabile essere fluenti in mandarino, ma conoscere la lingua è senz'altro di più che, se abbinato a competenze tecniche, incrementa anche di molto il valore di un curriculum. Mentre fino a 10 anni fa una laurea in cinese era certamente un'ottima carta per trovare lavoro in Cina e molti general manager approdati in Cina negli anni passati erano dei sinologi, oggi la lingua da sola non basta più. La Cina non vuole sinologi, non vuole tuttologi. Le competenze strettamente tecniche hanno sempre la meglio sulle competenze linguistiche. Ottimi quindi quei corsi di studio, e ce ne sono sempre di più anche nelle nostre università, che offrono la doppia laurea in Italia e in Cina e con un biennio trascorso in Cina danno la possibilità di approfondire il cinese, oltre che delle facilitazioni sui visti non indifferenti, come abbiamo affrontato anche nelle puntate della passata edizione. In internet si trovano molti corsi e risorse anche gratuite per imparare la lingua. Io personalmente preferisco pagare perché solo in questo modo poi mi impegno, un po' come andare in palestra. Un buon corso di cinese in Italia è sicuramente un ottimo modo per iniziare e il consiglio è di continuare poi con dei corsi in loco. Da prendere in considerazione anche Taiwan, che per la didattica è sicuramente più avanzata della Cina continentale. Per chi viene in Cina a lavorare o studiare è importante sempre comunque un buon livello di inglese. Per concludere vi consiglio l'articolo Imparare il cinese, la via dell'indolenza, sul blog Sapore di Cina, che in modo divertente offre molti consigli pratici per chi si voglia cimentare nello studio della lingua. Per maggiori informazioni potete cliccare su www.cinadifrontiera.com. E chiudiamo la puntata con i nostri input. Per interagire con noi, innanzitutto ci trovate online sul sito di Radio 24, sezione social su Facebook, nel gruppo Generazione Mobile Radio 24 o nella pagina Generazione Mobile. Siamo presenti anche su LinkedIn, sempre col gruppo Generazione Mobile, e potete pure contribuire al nostro blog che si chiama Giovani Talenti all'interno di radio24.it. Internet Point resta la vostra rubrica di riferimento. Ogni ultimo sabato del mese portiamo le vostre lettere in onda. Avete domande da porre sull'espatrio? Consigli utili da chiedere? Testimonianze personali? Scriveteci. generazionemobile@radio24.it. Infine, la nostra trasmissione vive grazie anche ai nostri testimoni, giovani tra i 18 e i 40 anni che ci raccontano il loro espatrio, le loro esperienze di studio, stage, lavoro e imprenditoria all'estero. Volete portare la vostra testimonianza on air? Raccontare la vostra storia? Soprattutto dare consigli utili ai vostri coetanei che in Italia vi ascoltano? Fate parte della nostra Generazione Mobile? Scriveteci e porteremo la vostra voce sulle frequenze di Radio 24. Per candidarsi basta scrivere a generazionemobile@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Generazione Mobile. Aspetto i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30 sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava. English Bit di Giulia Crivelli. Behind. Left behind. How to help places hurt by globalization. Lasciati indietro, come aiutare i luoghi danneggiati dalla globalizzazione. Si intitolava così una delle più recenti copertine del settimanale britannico The Economist. La prima parola che ci interessa è behind, che significa dietro, indietro, e ha un utilizzo abbastanza simile all'italiano. Who's the girl standing behind you? Chi è la ragazza in piedi dietro di te? Don't forget to lock the door behind you. Non dimenticare di chiuderti la porta alle spalle, tradurremmo. We are behind schedule. Siamo indietro, cioè in ritardo, rispetto ai programmi, tabella di marcia. The accident is behind you now, so try to forget it.